nemmeno importa. Adesso che sei qui, desidero che tu rimanga accanto a me oltre la vita. Non mi dire chi sei, se il nome che hai ci può separare. Da oggi, se tu vuoi, fin tanto che vorrai, saremo solo io e te. Inseguo sogni fantastici, perdendomi tra le nuvole, perché tuo amore è impossibile. Ora sei vero, sei vivo nella realtà. Non mi dire chi sei, il nome che hai per me non importa. Vieni e dimentica per me il passato. Sarai la